ragazze, no pure a te. Ma se ando sta narvature o staccio buono perché, perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare. Figurami se senti che tiene a ricerca a me. Stronzate 40 anni potere perché, perché a gente te ne fa messa fa stronzate. Tu ma manno celerina ma sgombera a me. Ma non basta manca niente modo dico oi ne, perché non mi fai più male a giambara da care. Curro, curro, vaglio. Come nel resto d'Italia, anche in Puglia nel 1921 l'utilizzo dello squadrismo da parte degli agrari divenne sistematico. I primi obiettivi furono le amministrazioni comunali di sinistra, le organizzazioni proletarie e le figure politiche antifasciste. Il 21 febbraio 1921 ci furono scontri con i fascisti a Bari dopo l'arrivo del comunista Bombacci. Il deputato socialista Campanini rimase vittima di un'aggressione e fu arrestato insieme a dirigenti della Camera del Lavoro. Le città che riescono meglio a resistere in questo periodo alle violenze fasciste sono Bari ed Andria. Nonostante la presenza di organizzazioni di sinistra nella regione, i fascisti a Taranto costrinsero l'amministrazione socialista a dimettersi e in molte zone gli scioperi fallirono di fronte alle violenze e al crumiraggio organizzato dai fascisti. Il 15 dicembre 1921 Giuseppe Di Vittorio assunse la direzione della Camera del Lavoro di Bari. È un bracciante analfabeta di Cerignola che organizzò le prime leghe di braccianti giornalieri. Imparò a leggere durante le lotte e le occupazioni di terre. Entrò nel sindacalismo rivoluzionario e ne divenne uno dei dirigenti nazionali. Fu eletto nel 1921 deputato per il Partito Socialista per la circoscrizione di Bari. Nel 1945 fu eletto segretario della CGIL. Carica che mantenne fino alla sua morte nel 1957. A Cerignola, Brindisi, Andria e Bari, la costituzione degli Arditi del Popolo avvenne nell'estate del 1921, come risposta dei braccianti e dei contadini poveri contro l'offensiva fascista foraggiata dai latifondisti. A Taranto la costituzione degli Arditi del Popolo avvenne dopo l'assassinio da parte di fascisti di Gennaro Favia, mentre stava facendo servizio di vigilanza alla sede locale del sindacato Ferrovieri. Ad Andria, che aveva un'amministrazione socialista, una spedizione fascista nel luglio 1921 distrusse la sede della Camera del Lavoro, della cooperativa e le sedi delle redazioni dei giornali di sinistra e di quelli moderati, con la complicità delle forze dell'ordine che invece di intervenire contro gli squadristi fascisti arrestarono i dirigenti della Camera del Lavoro. La costituzione degli Arditi del Popolo in Puglia avvenne essenzialmente per iniziativa della Lega Proletaria, ma a Bari la loro formazione avvenne all'interno dell'Alleanza del Lavoro, grazie soprattutto a Giuseppe Di Vittorio. Questa alleanza era nata a Roma il 20 febbraio 1922 per volontà del sindacato Ferrovieri Italiani ed in essa era molto forte la componente anarco-sindacalista. Vi confluirono però molte sigle sindacali come l'USI, la UIL, la CGIL e la Federazione Nazionale dei Lavoratori dei Porti. I caporioni fascisti in Puglia erano Starace e Caradonna. Il 24 gennaio 1922 a Cerignola

che un uom sopra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Non sia pace fra i mortali, finché un uom sopra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Il 1 agosto 1922 fu proclamato uno sciopero generale legalitario a oltranza contro le violenze fasciste dall'Alleanza del Lavoro in tutta Italia. A Bari, però, lo sciopero non viene inteso in maniera legalitaria. Già da diversi mesi, infatti, i lavoratori qui sono armati e inquadrati negli arditi del popolo. Nella città ci fu subito una grande partecipazione allo sciopero ed il prefetto fece affiggere per le vie della città una circolare con la quale si vietavano assembramenti e riunioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Alla difesa di Bari parteciparono battaglioni degli arditi del popolo provenienti da tutta la Puglia, che avevano predisposto da tempo un piano di difesa con la partecipazione dei rappresentanti dei partiti antifascisti e di esperti militari. Fu provveduto anche a reperire armamento, munizioni ed altri mezzi di difesa previsti dal piano di difesa. Racconta Giuseppe Di Vittorio: riuscimmo a sapere che il piano dei fascisti emiliani e baresi era di partire dalla piazza della prefettura e da piazza Mercantile all'assalto di Bari Vecchia e della Camera del Lavoro, la cui sede era in piazza San Marco. I nostri arditi del popolo in brevissimo tempo, con l'aiuto della popolazione, scavarono trincee ed eressero barricate in tutte le strade di accesso a Bari Vecchia, che rimase completamente tagliata fuori dal resto della città durante i 3 giorni dello sciopero generale. La mattina del 1 agosto ci fu il primo scontro a fuoco tra fascisti e arditi del popolo. Gli squadristi in forze tentarono di attaccare le postazioni difensive, ma dopo un'ora di sparatoria vennero respinti. Verso mezzogiorno ci furono altri scontri, che avvennero nella zona tra via Lombardo e piazza Castello, fra arditi del popolo e forze di polizia e carabinieri che cercavano di smantellare le postazioni difensive, ma furono accolti da colpi d'arma da fuoco. Il giorno dopo anche i ferrovieri aderirono allo sciopero. Fascisti e nazionalisti tentavano di far riaprire i negozi, ma furono bersagliati con bombe carta. I fascisti tentarono più volte di entrare nella Bari Vecchia, ma furono sempre respinti. Il terzo giorno, il 3 agosto, arriva una legione di fascisti di Bologna, la 10ª Legio, comandata da Leandro Arpinati. Inizialmente riescono a superare qualche barricata, ma poi un forte contrattacco degli arditi del popolo respinge i fascisti e riconquista le postazioni perdute. Il conflitto dura circa 2 ore. Nel frattempo la polizia aveva fatto incursione al circolo ferrovieri, dove aveva arrestato per porto abusivo di armi una 30ina di ferrovieri. Verso mezzogiorno in piazza della prefettura vi fu un altro scontro a fuoco e un lancio di bombe a mano, ma gli arditi del popolo ancora una volta contrattaccarono in forze e respinsero fascisti e guardie regie, che ormai agivano insieme. 30 fascisti delle squadre di Arpinati furono fatti prigionieri. Lo sciopero continuò nei giorni successivi e gli arditi del popolo, insieme alla popolazione della città vecchia, continuarono ad erigere trincee e barricate, soprattutto a Corso Venezia e Piazza Mercantile, che furono assaltate dalla forza pubblica, ma fu ancora una volta respinta, e le trincee e le barricate rimasero a difesa dei quartieri popolari. Il 4 agosto un gruppo di difensori lanciò una bomba a mano contro la forza pubblica intervenuta accanto ai fascisti. Venne subito mandata un autoblindo seguita da 3 camion pieni di guardie regie per smantellare le postazioni difensive, come riporta il giornale L'Ordine Nuovo. La battaglia si riaccese violenta. Circa 500 difensori scavarono in breve tempo un duplice ordine di trincee ed estesero nuove barricate con i lastroni della pavimentazione. L'autoblindo e le guardie regie, non potendo proseguire, aprirono il fuoco contro le postazioni difensive, con tutte le armi che avevano a disposizione. La popolazione del quartiere rispose sparando dalle finestre e dalle terrazze contro le guardie regie. Tre arditi del popolo vennero uccisi dal fuoco della mitragliatrice dell'autoblindo. Poi gli arditi del popolo attaccarono i carabinieri della caserma Regina Elena ed il carcere del Castello Svevo. Fra il 4 e il 7 agosto la situazione rimase stabile. Lo sciopero, nonostante l'alleanza del lavoro l'avesse revocato, continuò e la città vecchia restò occupata dagli arditi del popolo e dalla popolazione che continuarono a ingaggiare scontri con i fascisti. Gli ultimi due giorni di scontri videro gli attacchi dei fascisti indebolirsi e alla fine le squadre fasciste furono costrette ad abbandonare la città. La sera del 7 agosto il generale Guerra, comandante militare, organizzò un piano di occupazione della città vecchia e fu decretato il passaggio dei poteri nella città dall'autorità civile all'autorità militare. Ed ora ascoltiamoci un pezzo degli AK-47, fino in fondo. E sempre molti di motivi per andare fino in fondo. Gli AK ne incontrano vai ogni giorno sul campo. E in una canzone, un colore, un valore, lo stesso istinto ci muove, fa muovere la rima che non si può più fermare. Già mi sembra un mondo come quello del mare. Quando avanza e spazza le mura del palazzo, travolgendo cavalieri neri, serviti di rimpiazza. Attento al senso delle cose contorno, sento con i miei fratelli dal livello più profondo per cercare di invertire questa deriva di merda. Se non ci prova nessuno, se ne può fregare tutti in partenza. E sempre solo ricordo lo sbarco, gioco di interesse. Testa di un'alba, di un giorno non uguale a mille altri uguali, perché come la rigidi sono solo raschiamari. E così in una notte senza colore c'è chi prende la decisione di fermare il suo cuore. Cuore maledetto che pompa dolore nelle arterie, lo senti da sempre scorrere il rancore. Mi ripeto che lo so, che è così si sa, da chi non è fatta e la fortuna non va. Ma stringendo i denti, serrandosi sul campo, dovrà calare il sipario sull'orrore quotidiano di giorni sempre uguali e danni secolari, dove senti e padroni sono sempre più volgari. E invertire il senso, se visto che si può, per non impazzire nel silenzio, abbassando sempre il capo. Una è la via mia in cui sto Dopo 7 giorni di battaglia, alle 4 del mattino dell'8 agosto, l'esercito e gli agenti di pubblica sicurezza occuparono la città vecchia e la camera del lavoro. L'operazione si svolse con difficoltà, dato che diversi arditi e abitanti continuarono a sparare contro la forza pubblica. Alla fine degli scontri, gli arditi del popolo lasciavano sul terreno 10 caduti, i fascisti molti di più. Scrisse successivamente Giuseppe Di Vittorio. Tutti i numerosi assalti tentati dai fascisti furono respinti. I fascisti furono volti in fuga ed inseguiti anche in Bari Nuova, fin dove si trovavano i cordoni di polizia. La sconfitta dei fascisti e delle forze di polizia fu totale. Gli arditi del popolo, gli operai e i contadini rimasero padroni della situazione. Nei mesi successivi la città rimarrà impenetrabile ai fascisti e solo dopo la marcia su Roma del 28 ottobre, la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, Bari sarà occupata da un'intera divisione di fanteria che piazzerà le mitragliatrici in postazione nelle strade principali e i fascisti riusciranno ad occupare la Camera del Lavoro. Poi venne proclamato dalle autorità lo stato d'assedio. Ma la repressione non fiaccò la resistenza della popolazione. La notte di Natale del 1922 un gruppo di fascisti attaccò nuovamente la città vecchia aggredendo alcuni lavoratori, ma fu ancora una volta respinto. Ma anche in questo caso fu l'intervento della polizia ad essere determinante. Furono infatti arrestati gli antifascisti, tra cui l'anarchico Pasquale Speranza. 30 anni dopo la rivolta contro i fascisti della popolazione di Bari, Giuseppe Di Vittorio scrisse sulla voce dei lavoratori. Tutto il popolo barese amava gli arditi del popolo, nel quale ammirava i difensori valorosi delle proprie libertà. Quando reparti di arditi del popolo sfilavano in Bari Vecchia, tutto il popolo li acclamava con incredibile entusiasmo. E prosegue. Tutti i numerosi assalti tentati dai fascisti bolognesi e baresi furono vittoriosamente respinti. Fu una bella e magnifica pagina di storia quella scritta dal popolo barese. Ed ancora. Per la storia va ricordato che la Camera del Lavoro di Bari fu occupata soltanto 2 giorni dopo che il fascismo era al potere. Ma non dai fascisti. Fu occupata da una divisione dell'esercito, la quale occupò militarmente di notte tutta Bari Vecchia. Solamente dopo l'occupazione militare, dopo l'avvento del fascismo al potere, i fascisti baresi poterono entrare nella vecchia Camera del Lavoro. E scrisse anche nello stesso articolo: «Se almeno mezza Italia avesse potuto resistere, lottare e vincere come a Bari, come a Parma, come a Roma ed altre città, il fascismo non sarebbe mai arrivato al potere. Alla nostra patria sarebbero stati risparmiati il danno e la vergogna di 20 anni di tirannia e di dolori e la catastrofe determinati da una guerra ingiusta e non voluta dal popolo». La natura battagliera e antifascista di Bari Vecchia rimase intatta e nel 1977, ad esempio, rispose in massa dopo la morte di Benedetto Petrone, ucciso dai fascisti. Per chi volesse approfondire le vicende avvenute in Puglia tra il 1921 e il 1922, ci sono diversi libri. Bari, roccaforte dei rivoltosi, gli arditi del popolo e la resistenza antifascista nella città vecchia, di Fabio Salandra, edizioni Restart Press. Arditi, non gendarmi, di Marco Rossi. Gli arditi del popolo, la prima lotta armata contro il fascismo, 1921-1922, di Andrea Staid. Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista, 1917-1922, di Eros Francescangeli. I primi antifascisti, di Andrea Ventura. Così si conclude questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!